All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. Bentornati alla cena dei regini, io sono il Bach e questa è la cena dei regini. Bravi, bravi! Ogni settimana ci ritroviamo qua intorno a un tavolo io e le persone che collaborano con i miei eventi e discutiamo di quello da fare, di quello che abbiamo fatto e un po' di tutto, commentiamo notizie, abbiamo una bella scaletta, bella corposa questa settimana a partire dall'angolo della posta e da fare quattro chiacchiere subito col nostro ospite che ci è venuto a trovare dalla lontana Dubai, che è Manuel. Buonasera, salve a tutti. Ciao. Perché questo applauso? Che viene dalla lontana Dubai. Finché che io sappia sono una figura abbastanza importante nell'Ars, in quanto già discutevamo che... Va bene, questo era Manuel. Adesso mettiamo in Famiglia Reggae con Lion in the Jungle. Scrivete a cena@bach.it per comunicare con noi. Abbiamo lasciato qua in sospeso un ospite. Ci sei rimasto male, Manuel? Non poco. Lo vedi che io so trattare bene gli ospiti. quindi vuol dire che sì, infatti io vengo da Dubai e vengo preso per il naso, così 4.986 km. Ma non ce lo permettiamo perché con Manuel siamo in amicizia, da tanto tempo frequenta le nostre attività, soprattutto che gioco di ruolo dal vivo, che ricordiamo è questa grande improvvisazione teatrale in cui ognuno ha un suo personaggio e lo improvvisa liberamente. Tu adesso da quanto tempo sei a Dubai? Ormai un anno e mezzo circa, lavoro lì e la mia base è lì. Io lavoro per una compagnia aerea che viaggia in tutto il mondo e questa sera ho l'onore di partecipare alla cena di regina in compagnia del Bach e questa bellissima tavolata. E qua c'è un applauso. La bellissima tavolata. Ma questi tipi loschi. Quindi comunque assolutamente no, assolutamente no, è che vanno con lo zoppo e imparano tutti i cani. A parte questa, tu ti occupi comunque di lavori per questa compagnia, quindi un lavoro che ti permette di girare il mondo. Sì, sì, ormai ho visto diverse città in giro per il mondo. Sfortunatamente le mie tratte ultimamente non comprendono molto l'Europa, ma posso dire di aver vissuto delle ottime, stupende esperienze. Però tu comunque nasci e cresci a Reggio. La mia città è qui. Se devo essere sincero, ci sono volte che sono lì dove tutti i miei amici stanno lavorando e io sono a casa solo. Che pagherei per trascorrere una serata in compagnia come questa? Ottimo, quindi la cosa che ti manca di più comunque è l'ambiente familiare. Ovviamente la nostalgia di casa, la nostalgia degli amici, il gioco di ruolo dal vivo e così via è forte. Okay, parliamo di cose serie. Sull'aeroplano tu fai quei gesti tipo... No, no, noi siamo tecnologici, abbiamo il video di sicurezza. C'è già il video di sicurezza? C'è già il video di sicurezza. Uno schermo di fronte al tuo sedile e vedi tutto il video di sicurezza. A te ti è capitato tipo signora quarantenne che è nel mezzo dell'Atlantico dice oh mio Dio, fatemi scendere, sotto c'è la... Cioè, non mi è capitato durante il volo, ma mi è capitato prima del volo. Diciamo momenti esilaranti ne potrei raccontare a bizzeffe. Non so se abbiamo abbastanza tempo, ma ho storie davvero interessanti. Ma nel caso, cioè nel caso di panico sull'aereo, come avete un protocollo? Cioè potete passare direttamente a stordirla con una botta in testa oppure? Mi piacerebbe tanto, ma purtroppo non è la nostra procedura. Dobbiamo proseguire per gradi, vedendo se la persona con una buona chiacchierata riesce a calmarsi, passare poi alle medicine e infine all'arresto. L'arresto, in caso d'arresto. Cioè la metà te la portate nel continente successivo e vengono poi arrestati a terra, sì, purtroppo. È l'altra faccia della medaglia delle compagnie aeree che nessuno sa. Purtroppo noi veniamo presi un po' come camerieri, che alla fine non siamo, noi siamo lì responsabili della sicurezza, alla fine siamo in un certo senso anche paramedici in caso uno dei passeggeri sta male. Mi è capitato di cominciare un massaggio cardiaco in uno dei miei voli e vi assicuro è stato, penso, una delle esperienze più spaventose della mia vita, perché uno dice non capiterà mai, non capiterà mai, e poi hai una persona tra le mani tra un momento e l'altro a salvargli la vita. Però nonostante questo, diciamo, questa è la parte un po' pericolosa del lavoro. Personalmente, nel momento in cui io esco dall'aereo e sono in un posto che ancora non ho mai visitato, tutte le mie energie e la stanchezza vengono eliminate, cancellate, la mia energia rinnovata e la voglia di visitare i posti prende il sopravvento e così via. Dubai, che noi vediamo come una città da sogno, ha delle limitazioni, abbiamo detto l'alcol si può bere... Beh, stiamo parlando comunque di una città musulmana, quindi alcolici sono molto rari, ci sono musulmani diciamo un po' più liberali che non che non seguono religione, ma bevono come non curanti del loro precetto religioso. Altre cose... Beh, come molti cattolici, insomma. Un po' come molti cattolici che fanno sesso prima del matrimonio, ma non siamo qui a mettere i puntini su lei. Chi? Come? Quando? Chi si permette? Sporcaccia. Altre cose... Beh, abbiamo detto il burka. Il burka. Che è agghiacciante, cioè. Io direi che non possiamo fare una differenza riguardo la nostra cultura e la loro, perché noi siamo cresciuti con questa idea, loro sono cresciuti con quest'altra. Per quanto riguarda il burka posso dire che ho visto una grande varietà anche di colori, soprattutto chi non è veramente da un paese arabo ma è comunque musulmano, per esempio sto parlando che alcune persone in India sono comunque musulmane e indossano il burqa, loro utilizzano dei colori variopinti invece del classico nero del burqa arabo. Inoltre, ma solo cioè ad esempio una ragazza metallara ha il burqa dei metalli, cioè, non credo che esista purtroppo. No, cioè non sono dei colori predefiniti. Sì, la donna per quanto riguarda la religione deve indossare il nero, mentre l'uomo ha un vestito che è bianco, hanno questi idee. Per quanto riguarda il burqa, la donna a seconda della famiglia o per loro scelta, di scelta, possono decidere di indossare il velo, possono decidere di indossare solo il burqa senza velo, insomma hanno una certa libertà, ma a seconda della famiglia, se la famiglia è molto diciamo tradizionalista, la donna deve indossare il burqa completo. Però a salvaguardia dell'occhio maschile arriva il burkini. questo crossover tra il burqa e il bikini l'ha fatto una ragazza, mi sembra indiana. Sì. E quando è stata giustiziata questa? Sei sempre il solito, per fortuna le battute maschiliste le fai tu, così non mi libero di questa cosa. Perché ha fatto una bella. No, il burkini, cioè è un burka ufficiale, nel senso che ha tutte le coperture, i paramenti del burka, però ha la. Ecco, sfila come un bikini e si può portare al mare come si illustra in questa bellissima foto, che tra l'altro questa qua è la tizia che ha inventato, vedi, si è sta a modo con questo. Alcuni di questi persino in questa foto, questa donna indossa praticamente il burka che copre solo la testa, come se stesse indossando il velo, ma vi posso assicurare che ho visto persino burkini che ricoprono anche il viso lasciando solo gli occhi come un normale burka, con pratici guantini e scarpette. Ah, sì. Quindi questa è già la versione. Questa è già coupé. La versione più liberale. La versione coupé. Sì, diciamo. Grandioso, senza cappone. E questa era Manuel, adesso domani tu torni a. Sì, ho un volo di prima mattina, mi piacerebbe intrattenermi ancora con voi, ma purtroppo il dovere chiama. Grazie di esserci venuto a trovare, magari fate qualche collegamento via Skype. Sì, mi farebbe più che piacere, già vi ascolto con frequenza già da Dubai. L'altra sera facevo sentire i vostri saluti a me diretti da una mia amica, un'altra collega italiana di Bari. E vorrei salutare Rossana. Ciao Rossana. Ti mando un bacio. Ciao. Facciamo un applauso a Rossana. Rossana. E quindi, ecco qua. Tanti. Manuel, grazie di aver partecipato. Grazie anche a te, Bach. E adesso andiamo saluto avanti con l'angolo della posta. Ricordo cena@bach.it per scriverci. Quest'angolo della posta sarà veramente sintetico perché abbiamo molte cose di cui parlare. Rispondiamo rapidamente a Simonetta da Verona, che suggerisce un cambio del sottofondo musicale. Sicuramente lo farò, perché il ritmo reggae dopo un po' dice entra un attimo nelle in testa e fa questa specie di egg banging reggae per tutta la giornata e ti ascolteremo. Facciamo una cosa a Simonetta che starà là ad ascoltarci, oppure parliamo tutti in reggae così Simonetta è felice. No, e poi Gianni, i due Antonio, Manuela ed Angela da Reggio Calabria, che chiedono come partecipare alla cena, e l'ho detto anche l'altra volta, scrivete a cena@bach.it e scrivetemi perché, cioè chiedetemi perché non vi ho ancora invitato alla cena, adducendo il motivo, cioè potete scrivere in bacco, ma perché non mi inviti, io che sono, che ho fatto questa cosa nella vita, che ho questo trascorso esistenziale, scrivetelo e sicuramente, oppure potete vincerlo la partecipazione alla cena con uno dei nostri giochi e quant'altro. Quindi la cena è tendenzialmente aperta a tutti, purtroppo c'è solo un problema logistico e adesso anche radiofonico, perché più di 10 persone, 10-15 persone al tavolo sono difficili da gestire, impossibili da gestire radiofonicamente, tipo quello che beve, quello che chiacchiera, eccetera. Quindi avere 200 persone mi piacerebbe moltissimo, infatti gli eventi sono aperti a tutti, però la cena deve restare una cosa tristemente ristretta. Adesso mettiamo un po' di musica e poi passiamo a parlare delle cose fatte e ci ascoltiamo i Juice Big City con 1, 2, 3. Cliccato la cena dei reggini, sono sicuro di sì, altrimenti fatelo adesso, giusto? È fatto. Cosa abbiamo fatto in questa settimana? Abbiamo costruito un bellissimo balestrone da Angry Birds, abbiamo preparato lo Shanghai gigante e tutti questi giochi, che sono giochi un po' particolari, perché sono giochi che si ispirano a giochi preesistenti, però molto molto particolari, fatti in questa modalità. Angry Birds l'abbiamo ridisegnato per essere un gioco a squadre, lo Shanghai gigante diventa una via di mezzo tra il biliardo e le bocce, tipo. Cioè ha la concentrazione delle bocce, però sì, l'atmosfera sì. È quella del biliardo. Sì, è più strategico di un biliardo. Come col biliardo. Angry Birds inoltre ha fatto uscire la parte più competitiva delle persone, perché c'erano proprio le due squadre che non vedevano la ora di buttare il castello dell'avversario. Ovviamente, ovviamente. Le urla che c'erano, i tifi. Il secondo round non è successo. I proiettili che passano dove non devono passare. Abbiamo capito di che squadra era. Ma perché non è successo? Perché ci sono state due tecniche di costruzione molto diverse. La prima squadra ha fatto una sola struttura, però bella alta, corposa. Massiccia. No, era corposa perché hanno fatto una cosa intelligente. Hanno fatto la prima striscia di scalone e poi una seconda per accorpare di più la cosa, quindi era resistente. La seconda squadra invece ha fatto un po' l'opposto, cioè ha fatto tre strutture, però di un gruppo solo, se non ricordo male. Erano a due file veramente, ma erano più piccole, più concentrate. Sì, concentrate. E quindi comunque alla fine hanno vinto per con non questa è caduto astuzia. Un solo scatto. È colpa mia che non avete mira, dai. No, ragazzi, presto vi rifarete perché faremo il torneo di Angry Birds Umano e quindi avrete modo di partecipare con le vostre squadre e sfidarvi ancora. Poi altra caratteristica della Tanabata Night è stato l'albero dei messaggi, dove abbiamo collezionato i messaggi divisi in ragazzi e ragazze e, come avevo anticipato durante la serata, adesso li andremo a leggere. Alcuni sono veramente perle di saggezza, altri perle di nonsense, tipo il primo che è straordinario. Vorrei un cane. Vorrei un... Non parole incomprensibili. Distruggerò il mondo. Finisce così. L'autore, chiediamo all'autore se ci sta ascoltando. L'ho capito. Spiegarci cos'era. Chissà chi era, vero? Non si ma sa. Chissà perché me ne immaginavo. Il distruttore di Andrea. Eri tu? No. Sembra mio cugino. Infatti mi sa che non era. Questo. Perché vorrei un cane e poi distruggerò il mondo, quindi non può essere il suo cugino. No, non lo sappiamo veramente. Ovviamente i foglietti erano anonimi, l'ho ricopiati qui sul computer dove non sono riconoscibili. Era il cugino di un anonimo comunque. Andiamo avanti. Questo è più poetico. A voi amanti chiedo perdono se spero di ricevere questo vostro dono. Che i ponti ormai caduti si ergano ancora su ricordi perduti. E poi tutto quello che chiede un nuovo inizio affinché nuovi sogni possano popolare la mia mente. Quindi voglia di rinascita, di ricominciare. Vorrei riuscire a realizzare tutti i miei sogni. Certo, sempre. Ecco, certo. Compatto. È come la storia di quello che c'ha i tre desideri, dice voglio mille desideri. Sto vecchiuto. Beh, si spera che i due amanti. Certo. È un po' strano perché alla fine uno è il sogno che realizzano, però c'è questo qua che è. Questo è psicologico. L'armonia interiore è così difficile da trovare, portatrice di libertà. Un augurio che ognuno possa trovare la propria dimensione interiore. Un momento un po' catartico, purificatore. Di trovare la leggerezza. Questo è qualcuno che deve dimagrire. Evidentemente, forse è mio, non lo so. No. Forse è mio. Ci penserò io. Poi qua c'era un messaggio che è scritto in cinese. Però dai, aspettiamo la partecipazione. È scritto in cinese, c'è un linguaggio cinese, non l'ho decifrato, quindi sicuramente sarà una cosa bellissima. Però. Invitiamo sempre l'autore a scriverci e tradurlo cosa c'è scritto. Minimo. E poi? Un sogno ci sta per avverare, molti altri nel cassetto, ma basta crederci e perseverare, è così che mi hanno detto. Ora esprimo un desiderio e ci metto impegno e dedizione. Voglio creare una famiglia col mio grande, grande amore. Oh, che bello! Bellissimo! Poetico! Grazie! Poetico, romantico, straordinario, voglio dire. Poi tra l'altro in rima. In rima, certo, una volta che uno lo fa si impegna. E poi? In inglese questo ora vuoi dire tomorrow will take us away far from home, no one will never know our names but the bar song will remain affinché tutti possano vivere le grandi avventure degne di essere raccontate. Vale. Ok, a parte l'inizio dei Bling Guardian, fantastico. Tomorrow we take us away far from home. Basta. Ho capito. Barsong. Torna a casa, vado, ubriaco. Però è l'avventuriero. E poi c'è il lato femminile, il messaggio delle ragazze che sono un po' più... Sì, dell'Andrea ti commento di loro. Sono molto profondi, molto intensi, molto anche molto intimi, diciamo. E quindi? Cominciamo col primo. Potrei mi trasferire per una nuova vita in Giappone e rimanervi fino alla morte. Lo incontrerò più presto in Nisama. Che cos'è Nisama? Nisama sarebbe la versione... Praticamente in Giappone Nisama è il fratellone, mentre Nesama è la sorellona. Al contrario, se fosse scritto Ni-chan o Ne-chan, sarebbe stato fratellino o sorellina. E okay. Io sì, chi è questo? Che cosa vuol dire il fratellone? Cioè, io capisco il principe azzurro. Ma penso che io, a parte che penso di sapere chi l'ha scritto, inoltre penso che il Nisama viene chiamato una persona che sia molto rispetto, ma anche affetto. Molto affetto. Oh, quindi non è sul piano. No, non per sentimentale, ma per amichevole. Che bello. Con la pronuncia che ha dell'inglese, come ti può aspettare che abbia la pronuncia del Giappone? Lo chiamano Nisama, il fratellone. Mm-hmm. Che bello. In Giappone è molto utilizzato anche chiamare gli amici più stretti in questo modo. Bello. O i cammelli. Anche? Ecco. In Giappone i cammelli è belli, sono bellissimi, famosi. Non hai visto un cammello in Giappone? Sì, no. A Yoki a Mandorla. Che tutte le persone nocive per la mia vita e il mio futuro non mi disturbino più. Continua. Che trovi l'amore nella mia vita e che tutto sia positivo nella mia vita. Sta un momento un po' così e vorrebbe svoltare anche il senso sentimentale, una cosa molto bella. Ricordiamo, questi qua sono i messaggi delle ragazze. Mm-hmm. Non fatevi ingannare alla voce del panda. Immaginate. So che il tuo dente è bello. Immaginate però. l'inversione. Vai. Vorrei che tutte le persone che io voglio bene siano felice sempre, soprattutto mia famiglia e gli amici. Abbiamo qualche idea che ha scritto. Ma avevamo Manuel che parla 200 lingue, perché facciamo leggere a Panda? La prima. Manuel è già sul cammino verso Dubai. Siamo quelle ragazze. E vai, no, perché questa è peggio, ragazzi. Allora, ragazzi, qua ci vuole concentrazione. Sueno con ser felice di conseguir. Ah, c'è Feliz a todo. Senti, vieni qua. Bravo, un applauso. Dai. Una alla volta. Sueno con ser feliz y conseguir a ser feliz a toda la gente que quiero. Familia, amigos, ese es mi sueño. E per fortuna ci hanno aggiunto la traduzione. No, ce l'ho già scritta, l'ho riscritta io. Che? Sogno con essere felice e fare felice tutte le persone che vogliono bene. Famiglia, amici, questo è il mio sogno. Che bello. E poi c'è un messaggio con una dedica a Pusher. No. Contiene una dedica. No. Aspetta. No. Leggi. Il mio sogno non è vincere un miliardo, ma sposare DiCaprio e Leonardo. Ah! Pusher sarà vecchio lui. Guarda come si era preoccupato su. Che si era preoccupato lui, eh. E poi. Questo è molto semplice per tutti gli amanti del Giappone, che è un sogno molto comune a chi ha imparato a conoscere questa bella terra. La giappofila. Andare in Giappone e imparare il giapponese e imparare a disegnare. Semplice, una cosa che comunque si è contento. Questa è molto particolare. Vorrei riconciliarmi con mio padre ed essere sempre fiero e soddisfatto delle mie scelte. Questo è un bel sogno, perché alla fine c'è sempre il senso della famiglia. Da cercare di ritornare di avere un vecchio rapporto ormai perduto. Spero che la situazione economica a casa passi presto e che potremo comprare sempre ciò che vorremmo. Per favore, portaci soldi. Bene, quindi. È molto. I Koboshi or email, avete sentiti, eh! Give me $20! Che poi è bello, spero. Poi. Pezzo finale, per favore, portaci soldi. Che beh, anche se nessuno l'ha scritto, penso sia più o meno un desiderio molto comune. Yeah, non e si poi, vive di solo pane. Ovviamente no. E poi non si vede di sogni, di soldi. Anche di tuino e nastri. Comunque. E poi questo è un po' lunghetto, però. Questo è già da inizio. Allora. Vai. Stelle fiere, amanti prometti. Vi chiedo un dono da piccola mortale. Un desiderio chiuso. Un cassetto. Un secondo? Un desiderio chiuso in un cassetto per tanto e anche troppo tempo. Vi prego, voi che vegliate lassù, fatemi vivere come gli altri. Voglio vivere, avere la mia età, il mio vero essere. Il mondo non è pronto per i diversi, non ci hanno accudito. È preparato per la vita e deriva di ogni giorno. Ci beffeggia, ci fa cadere. Aiutatemi a scegliere chi veramente voglio essere e chi voglio al mio fianco. E a perseverare nel cammino. Se veramente devo essere così, perdonatemi, datemi la forza necessaria. Ora come ora sto crollando, crollo in pezzi ogni giorno di più. E quindi un messaggio sofferto per comunque alla fine questo, anche se è un messaggio sofferto, è pieno di speranza, perché la forza di chi l'ha scritto già ce l'ha. Ma ne chiede altro. Secondo me chi l'ha scritto non chiede altro che una possibilità di migliorare, o comunque di trovare le persone con cui veramente vuole passare del tempo. Una persona ha preso coscienza di se stessa e deve solo trovare una situazione magari che le assomiglia un po' di più. Ovviamente tra tutti i messaggi che ti abbiamo appena letto è quello più sentito, perché sì, comunque sì, è una persona che sa cosa vuole, non è semplicemente né egoista né materialista, vuole un'opportunità. Io personalmente spero che per questa persona i due amanti che vivono in cielo e che hanno festeggiato con noi il Tanabata possano ascoltarla. Sicuramente. Anche tutti gli altri, ma questo è quello che ha più sofferto, sembra. Sì. Ragazzi, è stata una serata veramente dall'atmosfera magica. Esatto. E quindi abbiamo riproposto un po' un pezzettino di Giappone anche qui a Saracinello, Reggio Calabria Italia. Tra yukata, tra kimono, tra questi messaggi, karaoke. Molto sfruttato. Karaoke sì, c'era gente che non si spostava da là. C'era gente che io ero al karaoke, mi hanno tolto, facciamo tutto noi. Va bene. Ti ricordi? Il che era bene, devo dire. So che non so che mi invidi la mia voce. No. Ma la cosa più bella, secondo me, è che è stato un evento in cui la gente si è ritrovata per giocare con le mani in maniera 1.0, un gioco a squadra, quello che si faceva un po' da ragazzini nei cortili. Ed erano tutti entusiasti. Cioè, la competitività, che ormai tu vai all'evento, ti guardi il concertino, fai le tue cose e finisce. Invece qua abbiamo fatto un evento un po' agricolo, un po' sì, moderno. Cioè, tornando alle origini. E vabbè ragazzi, questo è quello che abbiamo fatto e dopo la musica torniamo a raccontare cosa ci aspetta la prossima settimana. Lui è Jamex con Dance Till Day. Slow worries. weeks to find this girl of my dreams who's always on my mind. I look low, baby, I search high, from the back of the club to the left to the right. I'll look around maybe one more time, but what do I find? Those brown eyes, those brown eyes. www.back.it e cliccate la cena dei Regini. Il microfono oggi fa con i suoi tempi. Per scrivere, contattarci e seguire le iniziative legate alla trasmissione. Parliamo adesso delle cose da fare in questa settimana. In particolare, nel fine settimana ci aspetta il live di Free Age of Camelot, l'ambientazione fantasy dei nostri giochi di ruolo dal vivo. Sono i giochi di ruolo dal vivo, sono queste improvvisazioni teatrali in cui ognuno dei partecipanti è un personaggio e quindi vive per una serata, per un pomeriggio, in un'altra era totalmente. Il prossimo fine settimana a ridefinizione di location, perché domani avremo la conferma definitiva, faremo la versione fantasy. Da dire su questo? Nulla, perché praticamente tutto pronto l'altra volta, quindi già siamo abbastanza carichi e pronti. C'è qualcosa da ridefinire sulla storia, anche in base alla location da trovare, quella che faremo. Speriamo che ci sia la partecipazione dell'ultima volta, perché comunque siamo rimasti abbastanza positivamente stupiti, perché comunque la partecipazione c'è stata. Non ci aspettavamo mai di tutte queste persone, però eravamo più di 30, forse una trentina, non ricordo male. Eravamo tanti sicuramente. Comunque sì. Speriamo bene. Cioè, dai. Speriamo nel numero, ma anche nella qualità. Quello ci sicuramente. Magici colpi di scena. Magici. Ci saranno magici colpi in faccia. No. E vadi per no. Fantastiche melodie. Delitazioni. Non ci sarà il troll, però forse. Come no? Te deve partire. Non ci sarà il troll. Il troll ci ha trollato. Ci trolla il troll. Però abbiamo comunque personaggi maledetti, famiglie distrutte. Sì, sì, non ci facciamo mancare niente. Principi, principesse, draghi, mezzi. No, gente comune, con figli di contadini, gente zappa, non ne vogliamo. Se non avete almeno un dramma in famiglia, adesso. No, uno figlio di contadini c'è. Che però ha avuto una tragedia da qualche altro. No. Una figlia di contadini che ha preso da mangiare e sta andando di casa, così. Bene, stiamo migliorando. E comunque, a parte il gioco di ruolo dal vivo, ricomincia la serata di giochi di ruolo da tavolo. Prevalentemente dovrebbero iniziare il giovedì, quindi una serata internos particolare. Qui è possibile comunque iscriversi contattandomi, perché anche là il numero deve essere abbastanza ristretto. E quindi andiamo a sperimentare ancora il Lars in versione gioco di ruolo da tavolo. Quindi ci si riunisce intorno al tavolo, ognuno interpreta un suo personaggio, perché è sempre gioco di ruolo, però in una maniera, in un gioco che è a metà strada tra l'improvvisazione e il gioco di società. Ragazzi, detto questo, altro da fare, le serate di cinema, e le stiamo organizzando con anche il supporto di Andrea. Salve. Il lunedì le facciamo le serate di cinema? No. Io penso fosse di mercoledì, perché... o lunedì o mercoledì, ora le definiamo per bene e faremo questa bellissima serata di cinema sotto le stelle, in cui vedremo un film, ovviamente mangeremo e quindi basta. Vedremo le nostre finanze alla SIA. No. Assolutamente, infatti le date restano segrete. Gli inviti sono scritti su pelle umana consegnata a mano. Ah, è uno di quei macchingegni che ti avevi tu scrivi sui bambini, li fai girare proprio i bambini. E quando si autodistrugge? Esatto. Perché devi farlo distruggere gli altri neonati? C'è di male. Ma che stavo dicendo, figli, perché devi fare neonatale gli autodistruggi? Esattamente. Il discorso, no, la cosa veramente che mi deve fare riflettere è che il martedì c'è la cena, il giovedì c'è gioco di ruolo a tavola e mangiamo patatine e cose varie, il mercoledì c'è la serata cinema, insomma gli altri giorni sono a insalata, sì, per forza, perché insalata è a caserzo, non basta. Comunque ragazzi, adesso passiamo all'angolo delle notizie, ma prima i Double Six Project con Lovely. ragazzi, la cena dei regini, www.ilbac.it, e cliccate la cena dei regini. Adesso proseguiamo con l'attribuzione del nuovo premio NASO, il nostro premio dato in onore al blogger che utilizzò un'intera pagina del Fatto Quotidiano per screditare gratuitamente la Calabria. Allora, questa settimana il premio NASO lo vince tale Sergio Rizzo. Sergio Rizzo ha usato una pagina del Corriere della Sera per scagliarsi contro l'utilizzo dei bronzi, lo status dei bronzi, dicendo che in pratica, per prendere la pagina, 2 anni di rinvio, la riapertura slitta 2014, sono ancora pietosamente adagiati sul dorso di una sala di Palazzo Campanella a Reggio Calabria. Una vergogna per l'Italia negli occhi del mondo e via dicendo. Insomma, Sergio Rizzo, hai vinto il premio NASO, hai vinto la partecipazione alla cena dei regini, vienici a trovare e vedrai che quello che dici è vero, perché è vero che purtroppo i bronzi meriterebbero un'altra come dire, un'altra locazione, un'altra città. Purtroppo non diciamo, magari a Laos qui starebbero benissimo, cioè, soprattutto sarebbero in gran bella compagnia. No, li convertiamo là, li convertiamo per giocare a Robot Wars con... ah, cani, fantastico. Comunque è vero che i bronzi meriterebbero una figura di rilievo, di spicco della città, però Reggio Calabria non è solo questo, non è solo i bronzi curcati, ma è anche gente come noi che fa qualcosa di diverso, e quindi ti invitiamo qui a partecipare al nostro cena. Secondo me fanno queste pagine contro Reggio solo per essere in piedi alla cena. Può essere. Ma poi non vengono. Lo so, ma... vieni Sergio. Ti aspettiamo. E adesso, ragazzi, il momento che aspettate per tutta la settimana, la classifica. Andrea? Basta, no. Così ha avuto un momento. Abbiamo i gremlin. Si sono appena bagnati, quindi ormai scappano per tutta l'house. Visto che l'altra volta abbiamo parlato della classifica degli indiesisti americani, dagli americani, questa volta 21 segni che sei cresciuto in una famiglia italiana, scritto ovviamente dagli americani. Allora immagino 21 sono il mandolino, riconoscimenti, quasi sei un idraulico, quasi siamo a quei livelli, perché comunque è giusto mamma mia vedere come ci guardano anche loro. Allora, numero 21, hai mangiato la pasta almeno 3 volte a settimana. E qua, e qua ragazzi, ci sta, qua non gli possiamo dire niente. Abbiamo mangiato anche poco fa, quindi anche 8 volte a settimana. Ammettiamo, i tuoi nonni erano nonno e nonna, cioè nel senso che loro mantenevano questa dicitura anche all'estero. E qua, ah certo, nonno e nonna. Beh, anche mamma e papà, invece di papà. Può essere, però nonno e nonna è proprio come figura istituzionale. 19, i pasti in famiglia avevano sempre un aspetto esagerato. Vero. E anche qua e qui non possiamo dire niente, specialmente mi sa che questi americani ci conoscono. Ma sono venuti a quando fuori, perché le porzioni abbondanti sono proprio. Questa è bellissima. Ad 8 anni eri già più alto di tua nonna. È anche vero anche questo. Perché le nonne americane sono slanciate, no? Cioè sono automaticamente stando. Ah, per cui sei là. Invece le nostre nonne sono più ingombite, perché mettevano il peso sulla testa e quindi i gironi, i gestoni, ma poi lavoravano, eccetera. Certo. Quindi lo spessore lo facevano nelle mani e non sotto i piedi con i tacchi. Numero 17, tutti parlano con le loro mani, però gesticolano. Ed è vero, perché il vizio italiano. No, dico. È così. Assolutamente. Stiamo gesticolando tutti, giusto perché così ci vedete anche in radio. Certo. Registra questo momento. Numero 16, e qua pure. quando parlano ci sono due volumi, alto e più alto. È questo, per noi che registriamo il programma è essenziale, perché voglio dire, perché con il tono tipo italiano, quando parli a bassa voce sempre più mafioso. Abbiamo notato a giocarte quando Bach ha cominciato a parlare a bassa voce, e c'era la commessa che lo guardava tipo e si sta cacando addosso. Addirittura. Che effetto fa? È una cosa. Le donne. Basta. Numero 15. L'orgoglio è un eufemismo. Qua c'è una citazione non specificata. Ci sono solo due tipi di persone al mondo: italiani e quelli che vogliono essere italiani. E qua non si può dire niente. Anche qua, soprattutto. La citazione è perfetta. Perché comunque... Numero 14. Hai un sacco di Italia merchandising. Anche qui io direi che... cioè tutta quella... Sì, già ce l'abbiamo noi in Italia. Figure di quelli all'estero. Immagino tipo gente che ha le bandiere. Già ce l'abbiamo noi. Sì, in casa sì, magari c'è la bandiera piuttosto che il portachiavi. C'è tutto, la bandiera è un classico. E poi... noi facciamo il crossover con le bandiere delle squadre di calcio. Invece là resta la bandiera italiana di tanto storico. Numero 13, è qui. Un maiale cotto e mangiato intero era solo un normale barbecue italiano. Sì, sì. E non si butta niente. Cotto e mangiato, non si butta mai niente. Effettivamente. Mangiato sano, diciamo. Era così, era così. Però non siamo noi più obesi. Perché sono il loro, giustamente. Se non mi hai fatto così, cioè. Perché il maiale comunque era pasto genuino e saltuario, invece loro che si sparano sempre quelle salsine. Sì, quando si mangiano gli hot dog col chili, la cipolla, i crauti, cioè, contemporaneamente, quella è la questione. Vabbè, si mangiano, mangiano l'hot dog con il ripieno di hot dog. Cioè. Sì. Numero 12. Questa, ma tuo padre aveva un aspetto oscuro. Cioè oscuro, ingessato, insomma, tipo giacca e cravatta, quello è ingessato nero. E qua a discrezione di ciascuno, sì. Perché non lo so. Italiani. Numero 11, assolutamente, secondo me sì. I tuoi genitori avrebbero dovuto indossare una maglietta con scritto attenzione, sono iperprotettivo. E qua la classica mamma italiana, il classico papà italiano. Assolutamente sì, assolutamente ci siamo. Effettivamente ci conoscono abbastanza bene. Oh ragazzi. Sì, esattamente. Ecco cosa succede quando un genitore allarga troppo la cinghia. C'è due cose, quindi continuate così. 9. Sei disgustato da come i media rappresentano gli italiani. Ed è vero, è vero. Anche come i media italiani rappresentano gli italiani, a quanto. Anche gli come gli italiani rappresentano gli italiani. Sì. Sì. Giorgio Caber, per gli altri tematiche, spaghetti e mandoline. Sì. Ed è vero, però c'è tanto altro, c'è la mafia, c'è. Scherzi a parte, c'è la house. Tutti i brand nostrani. L'aeroporto di Reggio che è di Fogna. Ma sì, ma quella, ma quello è un fatto poetico di riunire cielo e terra, ecco. Numero 8. Pizzat e tutti i prodotti italiani in scatola sono contro la tua religione. Sì, bellissimo, io l'ho anche assaggiato, blasfemia, follia. L'ho assaggiato quella col bordino condito, il bordino ripieno, me la ricordo ancora. Loro fanno il bordino e lo riempiono. Ah, per essere proprio. Che poi la cosa bella è che quando io guardavo tipo i film anni 80, dove questi si pigliano le pizze, sono tutte pizze che in Italia, cioè, non si vedono mai. Non ci sono. Cioè io i peperoni la prima volta li ho visti tipo a 20 anni, tipo in una pizzeria, perché e loro mangiano sempre pizza, peperoni e cipolla. Sì, sì, sì. Tipico italiano per loro. Non lo so che italiani sono andati lì a fare ste pizzerie. Io ricordo la pizza col bordino e poi la pizza che era uno spicchio di pizza, che però era grande quanto una nostra pizza, cioè un triangolone così. Tipo, erano le vaschette e lo vendevano là dentro, anche loro tutti esagerati. Numero 7. Ti è stato insegnato a cucinare in giovane età. 3 anni per essere esatti. E qua non lo so. Perché comunque l'italiano che vive in famiglia solitamente si fa coccolare un po' in cucina. Ma guarda, dipende. Io per esempio da piccolo già aiutavo mia mamma in cucina. E mi è servito un sacco, perché adesso so cucinare. So cucinare. Non muoio di fame se sono solo a casa. Da piccolo cucinavo io. E adesso i tuoi te ne hanno ancora per questo oppure l'avete superato? Panda, che rapporto hai con la cucina? Io me la, cioè alla fine me la cavo. Non mi viene in mente che ho fatto la pasta. Ovvio, ma fate oggi anche una torta e comunque nella semplicità era una cosa interessante. Quindi voglio dire. Sì, magari non tutti effettivamente. Ma penso che alla fine magari non sappiamo veramente cucinare. Ma abbiamo un bagaglio che se ci troviamo da soli sappiamo attrezzarci. Abbiamo le skills. Sì, esatto, ma soprattutto distinto. Cucinare di, uno. Istinto di conservazione si chiama. E ritorno a casa. Non mi preoccupare, adesso una macchina che sta passando. Beh, fai conto comunque che questo qua, probabilmente questa classifica riguarda gli americani, cioè gli italiani che sono in America. Ovviamente. Quindi immagino che lì effettivamente sia una situazione che c'era da noi tipo 20 anni fa. Cioè 20 anni fa quelle persone che conosco io, meno male, tutte sanno cucinare, maschi e femmine. Ora effettivamente magari sono un po' più coccolati e non tutti sanno cucinare. Sì, può essere, infatti, perché veramente là c'è una. Secondo me c'è una maniera di vivere l'Italia che è molto legata al ricordo dell'Italia. Appunto, sì. Quindi comunque per certi versi sono dei puristi italiani, capisci? Molto da giudizio. Dipende anche dal fatto che ad esempio là in America quando non hanno niente a casa, la prima cosa che pensano è prendiamo qualcosa a portare via. Perché c'è il cucinetto o la pizza. Noi esempio, quando io andiamo da solo, la prima cosa che ho fatto è prendo un po' di pasta e mi sono cucinato qualcosa. Bello. Quindi penso che venga questo. Ma poi vivere da solo scatena anche l'istinto di conservazione, quindi alla fine c'è più. Ma ragazze, voi due, il vostro rapporto con la cucina, cioè sapete. Io mangio. Lei mangia. E basta. Cioè. No, se mi dicono poi questa cosa, magari mi danno la ricetta e mi metto. Sophie? La gatta sta cercando di smontare un po'. Ogni tanto anche lei ha le sue crisi, giustamente. Rapporto con la cucina? Dolce. Li sai fare? Sì. Fantastico. Okay. Solo quelli, ma settimana dolce. Prossima. Sì. Settimana prossima, ricordati. Ho fatto questa domanda apposta. per cercare di rimediare. Ce la farò. Numero 6. Sei diventato un intenditore di vino ancora prima di camminare. E qui assolutamente devo dire mi chiamano dove apre. E c'è il mio vicino di casa che svezzava il bambino con le frittole e il vino. Grande. E il bicchiere di vino. E allora esistono davvero questi casi? Esistono voglio. Fantastico. Sì, ma non tutti, però comunque esistono questi casi di, diciamo, assaggio alcolico in fase neonatale. Numero 5 è questo, ragazzi. Hai dovuto sopportare un pizzicotto sulla guancia ogni volta che hai visto un parente. Siamo là. Belle guanciotte. Il pizzicotto si è fatto grande, Andrea. E questa è un'usanza che comunque vedo che unisce tutto il mondo, però. Che poi il pizzicotto sulla guancia perché? Mistero. Perché è morbidoso. Perché è morbido. Non capiscono se stai bene, se stai mangiando, con lo stesso ne mangia. Quello. In carne sta bene. Secondo me è un po' come mangiare il maiale prima di comprarlo. Ti tastano per vedere se hai mangiato. Vero. Questo. Numero 4. Tutti tenevano le mani e ballavano in cerchio ai matrimoni. Per ore. Perché là suppongo che sarà il matrimonio vecchio stile, quindi. Sì, sì. Ma la sera arrivasse il matrimonio, quello là. Che comunque è quello che si fa anche qua, Marco, tranquillo. No, ma adesso perché ci siamo evoluti comunque. Cioè io ho vissuto prima di stato. C'era una dice dei ragazzini. Cioè, fino a che non arrivi comunque al momento tarantella e lì finisce la serata così. Ma. Dipenderà una cosa. Siamo, poi chiaramente dipende anche da famiglia a famiglia, situazione. Sicuramente, però. E poi, che male c'è? Anzi, è importante. Bellissimo. Se lo dici tu. Ma c'era. Ma c'era quella là dei bastoni pure, te la ricordo. La tarantella con i bastoni? Sì. E poi quando mettevano i bastoni ad arco e fantastico. Perché non farle queste cose? Ma quella era una sfida, era una cosa molto cavalleresca. Nel senso che si sfidavano questi bastoni. Certo. A ballare, perché non si sfidavano proprio si picchiavano. Però è molto interessante. Perché la tarantella è proprio sempre un ballo di corteggiamento. Sì. E di competizione tra due che avevano la stessa, tra virgolette, amata. Ma poi ricorda anche quella cosa che fanno i militari con le spade. Sì, perché fanno la stessa cosa, si incrociano le spade. Cioè fanno una specie di picchetto. Come a dire che il danzatore, l'utente di tarantella è un po' un guerriero della vita quotidiana. Sì, assolutamente. C'è questa similitudine. Bravissimo. E lei sarà la cerimoniera della donzella, che l'hai detto, ora ci abbiamo assoldato per fare la tarantella con la chitarra e l'ocarina. Non ha senso col mio. Ragazzi, le prime tre posizioni. Numero 3, almeno un membro della famiglia possedeva un'attività, probabilmente un ristorante italiano. E qui all'estero, sì, immagino che comunque all'estero funziona. All'estero non si è andato proprio tanto bene. Pizzeria da Tony, tutto così si chiama. Sì. Sì. Tony's. Pure in Finlandia. Comunque. Cioè io la prima volta che ho guardato una mappa della Finlandia, ho fatto zoom, la prima cosa che mi è capitata davanti è Tony's Pizza. Yeah, che almeno l'hanno internazionalizzato, per dire. Mi ricordo in Canada. Cioè tipo trattoria dei fratelli, tutto proprio scritto in italiano nella cosa. E poi avevano solitamente, non so se anche altrove, facevano il ristorante, trattoria eccetera eccetera, e poi avevano un night club con il nome inglese, tipo ristorante famiglia Passaniti, e poi il night club Titti Twister, ecco. Cioè tipo la doppia vita della famiglia. È fantastico. Numero 2, è qua. La famiglia potrebbe popolare un piccolo paese. E questo è solo dalla parte di tuo padre. E qui lasciamo perdere i commenti, perché io ora sto facendo la lista degli invitati al matrimonio. E non so dove mettere. È una ferita fresca. Sì, assolutamente. Effettivamente siamo tanti. E la cosa è bella, perché comunque quando uno ha già una famiglia grande, ovviamente si rispettano tutti, è una cosa bella. Però. Poi immagino quando sei in un paese straniero, cioè la famiglia diventa ancora più. Sì, ma poi dovete fare come la Ciano. Tu li inviti tutti e dici ognuno porta da sé. È così, giusto. Invito tutta la famiglia alla cena. Ragazzi, siete tutti invitati alla cena, mi raccomando, martedì prossimo. Certo, via internet, compratevi dei cracker e ascoltate il giovedì. Senza sale. No, ma io dico sempre, organizzate una serata come abbiamo fatto un'altra volta qua, una pizza, ascoltatevi la cena dei regini, davanti a una pizza. Numero 1, ragazzi, la cosa più importante, wow. ossessione della tua vita per la della tua famiglia, per la tua vita sentimentale. Mamma, cioè tipo la nonna che ti chiede bimbo, fidanzatina, è questo. Comunque, e questo è il primo posto. Questo per loro è il primo posto. Guarda, io aggiungerei un posto zero nel corpo. Vai. La nonna che, a prescindere se ti sei fatto male, di quello che fai, se vai bene a scuola, quello che succede, la domanda è: ma hai mangiato? Sei sciupato? La panacea per tutti. Vero, vero. Mangiare o uberare. No, però l'ultima è vero. Che tipo, ogni volta che mia madre mi vede un po' più giù del solito, mi fa: ma ti sei lasciato con Viviana? Con questo tono, ma ti sei lasciato con Viviana? Hai visto? Ma che cazzo vuoi? Censuriamo. Salutiamo la madre di Andrea. Ciao. Ma caca! A tutta la solidarietà nostra. Signora, se vuole eliminiamo noi. Signora, 200 euro ci pensiamo noi, ragazzo. Sì. C'è un dungeon da coprire. Dobbiamo fare il tetto nuovo, lo sigilliamo là. Nel tuo istituto, no? Comunque da notare che sono tutte riferite alla famiglia. Cioè, sì, c'è molto. Ci vedono molto attaccati. C'è questa immagine un po' agricola dell'italiano, però voglio dire. Sì, popolare. È vero, siamo molto attaccati alla famiglia. Comunque adesso, ragazzi, un po' di musica con Wanda in Phase It Out. Dragon egg. Gini, ragazzi, adesso ci riprendiamo le nostre cose e ce ne torniamo a casa, ma voi continuateci a seguire tramite il sito www.ilbac.it, tramite la mail lacena@ilbac.it, alla quale potete scrivermi: Bacco, perché non mi ha invitato? Avreste dovuto invitarmi per questo motivo, e forse sarete invitati, forse, che purtroppo, ripeto, c'è un problema logistico e comunque radiofonico per cui il numero di invitati deve essere sempre basso, ma comunque vada bene così, anche perché questa sera, tra una cosa e l'altra, alla fine abbiamo perso 4 invitati in un colpo, perché non so dire, vabbè. Per chi non ci crede che la cena ai Regini è una cena davvero, ci sono le foto, va sul sito e le guardo. E ne hai fatte le foto? Sì. Ma soprattutto ci sono i rutti di Andrea, che dopo che... No! Però che vengono tagliati, per bello. Mi sa che ne abbiamo fatte poco, male. Di foto. Va bene così. Io gli faccio gli assist. Se voglio suggerire modi per uccidermi, contattateci. No, uccidere ancora. Torturare. No, no, è a nostra discrezione. Botta. Ragazzi, stata Giovanna Regini. Salutiamo con un applauso. Ciao Mario. Ciao.